di Dalle Culturali, ti presenta Carmen Cacopardo Mariani. Insegno di Cagnatano e mi segno molto grande a lui. Metto il programma di questa madre, mi calla. E bella fare un museo all'archeologia di Dalle, per la storia di questa casa, e ci vuole mi calla. Una studenta o metà di Asmaha, dove questa sera, scimmia e si finisce in un'idea. Che lì si torna in discussione, l'ictà parte di non è natura morta o passaggio malgrin, o parte di un'altra cosa. L'esperienza che hai in un'altra stessa, non è il passaggio fuori paese in comune. O scimmia che ne è davvero, mi dice Michele, che sta interpretando una domiciolità artistica. Sì. Bene, bene. Mi che è un'importanza. Esatto, non so se sono Hasna o Nils, in denaro, le colore che hai una Dani, o Sodi, o io non ho Hasna. Poi bisogna fare, se voi ce ne hanno, due mondi che vuoi avere la castella sabbia, le curi, tre, e non sbaglia il giorno del gara. Si commenta Duara, anche Hasna sceglie da me, eh? Dica, mentre di Cresara o l'art ha da cancina in Sharba, ma ho ad Nazi e ma l'art in Sharba ha scesce da Adè. Ho ad un flet, allora il delle ha bel flet, Pedro Aurin. Ho ad da scesce da Adè, a Vilma o a Lettre Stampa, se metta il flet. O il tipo un po' il post, per stare meno quello che ricorda. Mi ha quello, cioè, le stelle non ha gusto, ma un po' il post. Interessante è che la MEC ricorda che non è stato sicuro che lui si malbutte per lì, ma ci la riesce a fare anche per lui che lo ha una calmele con tanto di giudice e lui mi fa il sabato a il busche e con il maltempo e con il re e abbia una cattedrale natura di fuetta stili di sua data a lui una scelta faccia di moda e mai e ci come fa l'ora? Vieni a una delle favorite che hai a che la fresca passa. L'ancienza, natura, anche lì, appena andò in via, o la maggior comune, la linea, metto tutto il sistema di attività, da c'è difficile. So, domani fa, se mi parla di aria, che ha scelto l'indifferenza, spumato, c'è che c'è con quel bambino, ha scelto anche per scuola, anche che c'è, anche che è una scuola differente. Ha scelto, mi scuola il soggetto, scuola scelta, e da un danno, si può spiegare, se le ha la scuola. Anche, danno il posto, ma... Però sono la macchina, ma è la macchina della scienza, cioè si chiama tanto malvare e le altre. Allora ha il colore e non si fa le altre manca. E forse si sta facendo di Santa Barra. Ma se non mi proposti hanno smalta e ora boschetto, di mamma loro. E sa, che si deve interessare a l'arte? Non ti ho tanto interessato a macchina. O il papà mi ha tenuto la scuola o di andare a passare. In te quando ti vado in scuola. Un volte in scuola fa il vento. Se la scena. O quando promette Hasna, o meglio è la zona di classe, la zona di classe vista, o quando sono giunta a te, o a me se è bahano se ne accanita a me, ma quando può girare l'ora, non è per me per il collo. A volte è da questo, è un clan, vabbè, è da fare o già il mio quello già può uscire o che non è da caro per Leo però l'interesse o la era o l'esibizione interesse a me o con la mamma faccia la mamma che poi prova lì con l'istarvina Leo o me che dalle mamma mi porta a Lina a del Bernardo che sta in Arle o ecco dell'esibizione e sa, è un scegliere che fosse per sperare di spingi cosa che spero che fermati gli hanno fatto un paesaggi andare con natura morta non c'è altro che mi è stato particolare no? Lettami le io tu mi affari l'inizio ma che ti scassa qua proprio a fare la bomba c'è un knappe su onda con la muffa c'è dieci che sta lì con la casa sulla spina con la stessa fine di me a fare io e a questa che cosa fa dopo la sera una macchina o una ginocchia o il cianciolo ci può dire un po' di non dare di lasciare di riavere تدخل تمدرس تانا جيلي هاتين فري بغرا ايه هاتين فين لفانس اوزومن وهاتين في الهجليجي فين في اوزان الحصنة كل رايزة في الحصنة فوقهم وتدخولي هارا الأبدين اللي تبشي نتدخولي هارا الهنس جادة كل ما فين؟ عم تكون تحتي فورتي؟ ايه عم تحصنة كون تحتي بليدن قاعدة سكولة جيهن وقاليا Io ho fatto una cosa. Io non mi fai saggi che per ogni malta fuori. Anche da Napoli, anche da Italia, o tu mi hai fatto un particolarmente, o tu anche le persone, da come. A scelte le famiglie da una paese, no? E la fatti le famiglie. Forse rubiglia per il tuo nostro marito. Esatto. Allora tu da un fai saggi che per ogni giorno? Esatto, un giorno. Oggi inizio a fare un reddito, ora mi capisci. In questo parte di un nome, da qualche espressione con la bella idea, che mi si bella, a me c'è la mano, a se lo fanno a tal lucca, a le nuove l'ambiente, o non posso scherzare. Sei che in bella? Questa che in tunnel, o che più? Ma che c'è che si è? C'è la mattina di un altro? C'è più, è più, a grande che c'è la mattina. Il momento che si è sentito c'è bella, e se lo fanno a tal lucca, che c'è bella? Rada Roma. O le strade di tante le scoglie, già crede a, ma da ancora le figlie le scoglie. O di plata... Però io ho sentito quello che tu sottili lenti, lo sottili da chi. Sottili lì da noi. Poi io, la sottili da chi. Basta. Se lo fa, palizza senza che impegnata a ci sciogli, vuole ci riavvolare io. L'impegnata, secondo me, lui ha colpita, o allora ci sono senza, o che c'è stata una struttura lì. Questa pala mara quindi è dedicata al high-tech, all'arte. Che tasse che le chiedo e mi sanno ora, che tasse che ha su le immagini? Tasse che le pala mi sanno al tema di una tua differenza di voi e l'arte? Sì, che scansa, quando mi fai l'arte, hanno scelto le ferie. O mi hanno detto che non lo so, allora io sono fatta. Volevo essere normati e assurda le interviste con gli altri. Anna, mi ringrazio, se da che parecchio Taitan, papà di Segnatana, e di tutta la mia costruzione, dove mi chiede di parlare, se di vedere collezioni da Sengi, ma domenica, dove si lavori a Gilt, e questa è il pubblico di Gilt, l'archeologia, Gilt. Funzioni. Ah, sì. Accavamo.